Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Domenica scorsa, o meglio, tra giovedì, sabato e domenica, giorni in cui si è con tutto comodo giocata la 12ª giornata di campionato, sono stati segnati 27 gol, 13 su azione e 14 su palla inattiva, primato stagionale. Ora, è vero che tra quei 14 gol ci sono stati alcuni rigori che tra l'altro rigori non erano, ma è vero anche che tra punizioni e calci d'angolo si è molto sfruttato dal punto di vista realizzativo. Tra le tante punizioni c'è stata quella particolarmente discussa del Catania per questa nuova formula. E allora, tra barriere fatte bene, altre fatte male, furbate assortite, difensori che sui corner marcano a uomo, altri che invece marcano a zona, insomma, mi è venuto in mente che questa poteva essere una buona ragione, ma forse anche una buona scusa per disturbare niente meno che Dino Zoff. Buongiorno Dino. Ciao, buongiorno a voi. Secondo te è più una scusa o è più una ragione seria? Una ragione seria, dai. Beh, però lo sai che il piacere. Soprattutto volevo partire da questa sindrome Bagnoli che ha preso Zoff, oppure la sindrome Zoff che ha preso Bagnoli, e cioè due grandi uomini di calcio e di etica soprattutto, oltre che di calcio, che hanno sempre parlato poco durante la loro carriera e che invece, andando avanti con gli anni, hanno trovato il gusto dell'eloquio. Mi sbaglio? Che vale anche per te? No, proprio il gusto, no, però certamente, siccome sono stati sempre accusati di non parlare, adesso che si può tranquillamente parlare e non parlare degli avversari, che non è mai simpatico, possiamo dire la nostra, ecco, quindi non eravamo proprio muti. No. Sì, io ricordo che ai tempi in cui seguivo la Nazionale, insomma, molto banalmente battezzavamo la camera tua e del povero Gaetano la zona del silenzio, no? Perché questo è... Tranquillità certamente, non era la camera di Tardelli, a parte che non c'era mai, era sempre in giro che non dormiva. No, allora, si vede di tutto, no? su sti calci di punizione, si vedono capolavori autentici come quelli di Del Piero che ultimamente ne sforna in continuazione, si vedono barriere, correggimi se sbaglio, da dilettanti, anche se è un grande come Casillas a disporla la scorsa settimana, si vede gente addirittura che si tira giù le braghe per distrarre il portiere ed è successo a Catania. Cosa è successo? Ma è successo semplicemente che ci sono dei tiratori straordinari. Partiamo da questo fatto. Sì. Almeno sulle punizioni, certamente abbiamo visto anche quella di Zarate, è stata un capolavoro. Al di là. Poi certamente i portieri in questi casi patiscono. Casillas, per esempio, se tirava da metà campo probabilmente Del Piero faceva gol lo stesso, perché ormai lo pativa, perché anche il primo gol secondo me non era così irresistibile come si vuol dire, ecco. E certamente sulle punizioni i giocatori sono migliorati tantissimo e sono tanti che la giocano bene. Sui corner invece io credo che ci sia qualche deficienza dei difensori, perché se non tengono l'avversario non sono capaci a difendere. Io vedo ancora della gente che non guarda il pallone e si attacca all'avversario, che per me sarebbe già rigore. Già. E certamente non sono, insomma, il fatto che si facciano tanti gol, qualche anomalia ci deve essere. Certo. Io ricordo che tu ti arrabbiavi molto sui calci d'angolo, ma ti arrabbiavi prima, però non dopo, perché dopo non dai mai la colpa a nessuno, te la prendevi tu come fanno i grandi. No, io anche da allenatore non concepivo che un difensore dovesse e abbracciare l'attaccante non guardando il pallone, è già un gesto di inferiorità, di sudditanza. Non è un difensore se ha paura di giocarla con un attaccante, con un difensore avversario che viene, che difensore è? Se deve tenere, posso tenere anch'io che ha 60 anni. Senti, per questi tiratori, no, non è che mancassero i tuoi tempi dei grandi colpitori, magari erano di maggior nome, mentre adesso sono avvantaggiati a parer tuo da questi palloni più elastici che si muovono, che volano di più? Vabbè, probabilmente sì, ecco, perché essendo i palloni elastici, perché il peso e la grandezza devono essere nelle norme che ci sono state, certo, regolamentari, ecco, certamente sono più elastici, probabilmente materiali, oppure alcuni palloni hanno le fettuccine di come sono composti sono più grandi e di conseguenza questo dà più elasticità, quindi possibilità. Ma io che sono vecchio ti posso dire che quando si giocava negli anni 70 in Inghilterra avevano il mitre o il maitre, come si dice, che sì, era più o meno come questi palloni, sì, andava un po' dove voleva, quindi insomma non c'è niente di nuovo sotto il sole, come diceva l'Evangelista. Ecco, una volta non l'avresti detta questa qua. Senti, parliamo delle due società che ti sono state più care. Partirei dalla Juve. Qualcuno si è stupito di questo ritorno della Juve, di questo carattere tirato fuori nel momento più difficile? Secondo me vuol dire che non conoscono la storia del DNA della Juventus. Prima di tutto non conoscono la storia e secondo me hanno fatto delle valutazioni errate sulla potenzialità della squadra. Io credo che la Juventus si batterà per il campionato fino alla fine. Certo, domenica uno scontro e non la vedo tanto bene per questione di numeri, insomma, dopo 7 vittorie qualche problema può saltare fuori dalla cabala, ecco più cabala che ecco. Però insomma la potenzialità c'è tutta, insomma. E sono convinto, in compenso scommetterei, che il ritorno in alta quota del Napoli ti ha fatto un gran piacere. Ma sì, mi ha fatto un piacere, mi è dispiaciuto l'esagerazione di Lodi, ha fatto bene l'allenatore, che ha detto che insomma probabilmente li hanno portati fuori scala, sì. Ecco, tutti questi elogi. A Bergamo avevano già trovato difficoltà l'anno prima e di conseguenza dovevano prevedere anche qualche difficoltà in più, poi dopo ci sta anche, Napoli comunque mi sembra una squadra brillante, concreta, e perciò può continuare a far bene. Non ricordo se hai fatto parte, così salto un po' di palla in frasca, se hai fatto parte anche tu del club vittime di Variale. Sì. Io non sono stato vittima di Variale. Proprio tutta la categoria vostra poi è insorta, che poi io non avevo sbagliato, perché a quei tempi il giornalista che stava vicino alla panchina non aveva delle regole come adesso, che può stare, deve fare, eccetera. Prima era così, si aggiustava, cioè, tu stai lì, però poi dopo alla fine fai queste tre domande, chiedi all'allenatore come è andata la partita. Sì. Lui invece naturalmente ha fatto domande e risposte, e quindi ho detto non sei in diritto di fare questo, perché gli accordi con la federazione erano diversi, quindi apriti cielo, il fatto di dire tu non hai il diritto è scoppiata la stampa, la cronaca, il dovere di cronaca. Quindi vedi che anche tu comunque, se sia pure a titolo allargato, fai parte del club. Senti, ha ragione Mourinho a dire che il nostro calcio è il più difficile, ma certamente non il più divertente oggi. Ma secondo me, se è il più difficile, può essere il più interessante. Divertente, non lo so, io insomma non mi piace il calcio italiano per quelle sceneggiate, ogni due che saltano uno va per terra, si tiene la faccia, e a mezz'ora insomma sono queste furbate che mi fanno venire il latte alle ginocchia. Ecco, per il resto lo trovo buono, però sono esagerazioni proprio di ogni 5 secondi, palla ferma, uno per terra laggiù, insomma non si può andare avanti insomma, di questo passo. Mi piacerebbe citare una magnifica intervista in cui davvero non saprei, che è uscita qualche mese fa sulla stampa, un'intervista tua a Giancarlo Dotto, e non so dire sinceramente in quella pagina se fossero più brillanti le domande o le risposte. Visto che hai parlato di sceneggiate, cito quello che dicesti a Dotto: sto male fisicamente quando vedo certe sceneggiate in campo, gente che rotola al minimo contatto, si sono inventati il terzo tempo, ma che senso ha se non bonifichi il problema a monte? Ma quale terzo tempo? Io non gliela stringo la mano a uno che mi ha rubato un rigore. Beh, insomma, sono tuttora dell'idea. No, non accetto, ma come? Uno mi ruba in campo, si butta giù, vince la partita, io gli devo stringere la mano, ma gliela mangio la mano. Non è. No, no, certo. Dotto ti incalzava dicendo: ma lei praticava l'etica anche da allenatore, e tu rispondi: dicevo ai cascatori, ma cosa racconti a tuo figlio che ti ha visto in TV? Che sei stato furbo o che sei uno straccio di atleta? No, no, questo è vero, sono tuttora, insomma, non è vero, dai, ma insomma, ho un figlio, in fondo il calciatore è un atleta per un soffio, va per terra, non so, a casa che cavolo dice, non è possibile, dai, certo. è un segno di inferiorità, di furbizia, che poi, sai, troppo furbi muoiono per mano degli stupidi, dicono a Napoli. Sì, no, non so se funziona in questo paese, però mettiamo che sia così. Eravamo rimasti al valore del calcio, eccetera. Tu quando ti piazzi davanti alla TV, quando devi scegliere, per esempio, per la contemporaneità tra una partita, non lo so, una grande partita spagnola o una grande partita italiana, vai a giocare a golf oppure guardi una delle due partite? No, guardo senz'altro la partita italiana, sì. Questo non ci sono dubbi, la partita spagnola la posso guardare così, ma comunque dopo, senza dubbio. No, mi piace ancora guardare le partite, quindi il golf, insomma, può essere una passeggiata di salute, però insomma, non confondiamo. Senti Dino, ricordo male o tu non hai mai preso appunti in panchina? No, perché l'ho mai preso. Ma perché hai buona memoria o perché non facevi il cinema? No. Tutte queste cose sono sempre delle esagerazioni. Certamente qualche appunto uno si prende, però io non ero così fiscale. Mi piaceva il giocatore in campo che insomma dovesse ogni tanto per avere personalità prendersi qualche responsabilità. C'è un'altra domanda che mi frulla da molto tempo, e dato che ci si sente ogni tanto, è una domanda così generale, anche di costume, ma insomma io ricordo che nessuno di voi, credo di ricordare bene, nessuno di voi dei vostri tempi d'oro ha mai cantato l'inno. Allora la domanda è: eravate poco patriottici voi o andava meno di moda la demagogia allora? Ma guarda, anche qui c'è sempre... Prima di tutto non era costume una volta, uno se lo cantava dentro di sé, adesso che è diventato tutto plateale, logicamente bisogna cantarlo così, però noi lo cantavamo tra noi, insomma, ecco, quindi senza, poi è venuto fuori che bisognava cantarlo, far vedere, eccetera, quindi io non lo trovo giusto anche questo, ecco. Sì. Però patrioti, insomma, la storia è lunga, a parlare di patria ai miei tempi potevi essere considerato di destra, adesso la patria la adoperano tutti quelli di sinistra, io non lo so. Hai perso l'orientamento. Vabbè che sono cambiati i tempi, adesso sono anche i portieri brasiliani, il mondo è proprio cambiato. E un monumento che perde l'orientamento non è male. Torniamo in compagnia di Dino Zoff e torniamo anche a quella magnifica intervista che realizzò con lui qualche mese fa Giancarlo Dotto. La domanda era: dico etica e penso a Moggi. La tua risposta era: intuivo ma non avevo prove. Quando allenavo la Fiorentina sono però stato il primo a tirar fuori i cattivi pensieri e a denunciare che c'era qualcosa di pilotato. Poi è venuto fuori tutto. Sì. Posso testimoniare che andò così, Se non sbaglio, la prima puzza di bruciato la sentisti dopo un Sampdoria-Fiorentina. Però erano pensieri cattivi, quindi sai, i pensieri molte volte vanno oltre la realtà, poi è venuto fuori anche qualcosa di anomalo, però insomma non sempre un pensiero può essere così veritiero, in questo purtroppo caso qualcosa di anomalo c'è stato. C'è stato, e diciamo che il bruciato l'avevi percepito. Hai rovinato la carriera, domanda, a non si sa quanti dodicesimi, perché tu hai giocato 332 partite consecutive. Sì, è vero, ho fatto 11 stagioni alla Juventus, non perdendo una partita, e due al Napoli. E quindi io credo... Insomma, la legge dello sport è quella, gioca il più forte, il migliore, e quindi io ero abbastanza forte, quindi per gli altri non c'era molto spazio. Sono le leggi che devono essere per uno che lo sport lo sente veramente. Un ascoltatore, stanno scrivendo in tantissimo ovviamente in tempo reale, mi domanda qual è, se c'è stato l'attaccante che hai patito di più. Poi questo fa anche un nome, ma io ho l'impressione che sarà quello che direi. Ma guarda, è quello che ho patito di più, ma è perché è una circostanza particolare, perché con questo giocatore che era Paolino Pulici, era del Torino, e lui si trasformava in casa, e purtroppo erano due partite all'anno che dovevi fare al comunale, e quindi la media proprio che mi facesse gol era superiore a qualsiasi altro, perché lui fuori casa certamente non era così pericoloso come in casa. In casa si trasformava, il cuore granata, la curva, e quindi veramente era un altro giocatore in casa. Anche perché se Pulici fosse stato uguale in trasferta sarebbe stato un attaccante stratosferico, credo. Ah, beh, indubbiamente. Una volta, racconti in quell'intervista, mi giustificai con mio padre per un gol preso male. Non me l'aspettavo e lui mi gelò. Perché fai il farmacista? Sì, beh, per dire la concretezza che vigeva in casa Zoff, insomma, non c'erano scuse mai, non c'era uno al raffreddore, sento gente che ha raffreddore, la tosse, e quindi non può giocare bene, e quindi questa casa mia non potevi neanche pensarlo, ecco, e quindi anche il fatto che uno dicesse ma non l'aspettavo era logico, aveva ragione lui, che cavolo fa in porta, e devi aspettartelo, e quindi per dire la concretezza, insomma, la realtà vista proprio nuda e cruda è quella. Ti capita ogni tanto di avere qualche bottarella di nostalgia, di avere un rimpianto, di sentirti magari, di sentire ma perché nessuno viene o è mai più venuto in mente di magari con chissà in che ruolo, chissà in che parte, oppure la serenità è assoluta? No, guarda, la serenità proprio, sai, la serenità assoluta non è facile. Ma d'altra parte io mi ritengo un uomo difficile, così concreto, così chiaro, così dentro le leggi dello sport. E come si fa a dialogare con me, insomma, perché poi dopo, sai, in questo mondo abbastanza così, diciamo, diplomatico. Diciamo diplomatico, io non li capisco, ecco, capisco che non mi vogliono fra i piedi, lo capisco benissimo, anche se c'è un po' di rammarico, c'è, perché cavolo, insomma, si parlano tutti di etica, eccetera, io che ho fatto 20 anni di etica, di esempio sul campo, non posso parlarne più, insomma, questo mi brucia, per dire che ho giocato per niente, no, ho giocato per me, e mi ha fatto bene perché sono migliorato, eccetera, però insomma il mio esempio in campo qualcosina da trasmettere ce l'avresti ancora. Dino, se si può abbracciare un monumento, ritieniti abbracciato, insomma. Grazie, a presto. Ciao, grazie di cuore a Dino Zoff per questa conversazione. Adesso ci siete voi ascoltatori, ci sono altre voci da ascoltare, che sono quelle dell'attualità, quella di Zoff ormai è una voce storica. Poi avete sentito anche tutto sommato il suo dispiacere per non essere anche una voce dell'attualità, della cronaca, magari non necessariamente nella veste di tecnico, potrebbe essere una veste dirigenziale, anzi forse anche il meglio, avrebbe qualcosa di particolare da insegnare, ma avete sentito anche il perché. La risposta se l'è data da solo, mi pare, sulla inadeguatezza sua rispetto a questo mondo, o di questo mondo rispetto a personaggi come lui. La vigilia di Lippi, Lippi stasera insegue la 31esima partita utile consecutiva, sarebbe il record assoluto per un commissario tecnico di imbattibilità. La vigilia di Lippi si muove su due fronti, e cioè sulla scelta dei due attaccanti. Sentiamo prima cosa dice sul conto di Toni. col Bayern, mi sembra che non l'abbia perso, anzi appena entra fa gol, dopo 2-3 minuti sembra quasi che abbia una voglia di far gol. Eh beh, in nazionale, ma quando un giocatore ha una familiarità con il gol così importante non bisogna preoccuparsi più di tanto. Uno che fa gol da sempre in tutte le categorie, a tutti i livelli, in tutte le competizioni, li continuerà a fare sempre. E questo era Lippi sul conto di Toni. Sentiamolo anche sul conto di Rossi, direi certamente più significativo. Perché? Perché se un, al di là del primato di Zoff, se un significato in particolare ha la del primato di Lippi, intendevo, se un significato in particolare ha la partita di stasera in Grecia, io credo che sia proprio quello di testare la caratura internazionale di Rossi, che in ambito di club non ha bisogno di conferme, visto che Giuseppe Rossi gioca e segna brillantemente nel Villarreal, l'ha fatto già nel campionato inglese come l'ha fatto nel campionato italiano. In ambito di nazionale, sia pure contro la non eccelsa Grecia, è certamente un bel test quello di stasera. Sentiamo Lippi. È maturo, ha grandi qualità tecniche, poi è un ragazzo che, in virtù del fatto che ha già giocato praticamente in 3 campionati importanti come quello inglese, come quello italiano e come quello spagnolo, è un po' più maturo, anzi molto più maturo di buona parte dei giovani della sua età, e perciò è giusto che venga subito con i grandi. Ha chiamato Fabio dalla Spezia, buongiorno. Pronto, buongiorno Garanzini. Volevo comincio intanto con fare i complimenti per la telefonata che mi ha preceduto, il regalo che ci avete fatto ascoltare Dino Zoff, sul quale si possono dire veramente soltanto cose positive. E, tra l'altro, questa telefonata di Dino Zoff per mi responsabilizzo, perché seguire la sua telefonata è un po' complicato. Il mio intervento voleva accentrarsi proprio su alcuni episodi che sono avvenuti di recente, non ultimo questo di Catania del giocatore che si è abbassato le braghe, ma anche non so, Gilardino che ha fatto il gol con le mani. Ora, metteva un punto in evidenza di Nozzolfi, che deve essere secondo me proprio compito anche degli allenatori e dei presidenti moralizzare i propri giocatori. Ancor prima del giudice sportivo dovrebbero arrivare le punizioni, le sanzioni disciplinari degli allenatori e dei presidenti. Questo giocatore del Catania e Girardino dovrebbero rimanere fuori dai campi almeno per 3, 4, 5 mesi, perché non è possibile che veramente il calcio mandi dei messaggi così fuorvianti. Cioè, io dico veramente, ridateci il calcio vero, il calcio. Però Fabio, bello, a me sembra che 3-4-5 mesi per un gesto istintivo nel caso di Girardino siano davvero tanti. Ha preso 2 giornate, mi sembrano abbastanza tante, le ha pagate e credo che adesso dovrebbe bastare senza più preconcetti. 2 giornate dovrebbero lavare anche i preconcetti, che invece magari resistono, perché poi in queste cose il dazio non è mica detto che lo paghi in una giornata sola. È vero che Inzaghi continua a maturare rigori ancora, però insomma, magari dipende da uno all'altro, dipende dalle squadre in cui si gioca, e queste sono come sempre valutazioni soggettive. Io sono un pochino perplesso sul fatto che lei parlava di società, di allenatori, sono un pochino perplesso sul fatto che Doni non abbia ricevuto sanzioni di alcun genere, né da giudice sportivo né attraverso la prova televisiva. Si vede che abbaiare a quel modo in faccia all'arbitro e urlare che schifo a ripetizione sempre in faccia all'arbitro con la fascia da capitano a braccio, si vede che fa parte delle cose ammesse nelle nuove regole del calcio di oggi. Sentite questa mail inviata da un ascoltatore di nome Alfonso Filpi. Non viviamo in un mondo perfetto. In un mondo perfetto Mark Chapman avrebbe ucciso Yoko Ono e Zoff allenerebbe ancora la nazionale. Non è male questo. Sì, forse già sarebbe un altro in un mondo ideale, in un mondo perfetto che non allenerebbe più invece di Zoff, ma questo è tutto un altro discorso. Paolo dalla provincia di Ancona, buongiorno. Buongiorno a lei Garanzini e a tutti. Dica. Gli ascoltatori. Volevo intervenire più che altro sulla bellezza, no, del nostro calcio che non è esportabile. Secondo me è molto molto soggettivo, cioè io mi diverto molto di più vedere due squadre bilanciate in fase offensiva e difensiva che vedere una partita dove una squadra surclassa l'altra per tutti i 90 minuti. E poi inoltre deve essere sempre un fine a se stesso. Per fare un omaggio al buono Dino Zoff, io mi divertivo più vedere la Juve di Dino Zoff con i vari Zavaro, Valenico, Veschillaci, che la Juve di Maifredi con Baggio, Casiraghi e Corini, cioè deve essere fine. E poi ottenemmo anche risultati un po' importanti, vincemmo una Coppa Italia, una Coppa UEFA. Quindi secondo me la bellezza deve essere affine a se stessa, cioè essere una buona fase offensiva, una buona fase difensiva, e due squadre che si affrontano, non dico a darmi pari, ma che insomma ci sia il filo da torto, che ci sia equilibrio. Certo Paolo, ma non c'è dubbio, una partita equilibrata, una partita tirata, una partita in cui ciascuno delle due può vincere, è quello che è la partita più coinvolgente. Poi questo è un primo parametro, poi c'è il parametro della qualità, ma il primo deve essere questo, ma vale anche per i campionati. Un campionato che si gioca tra tante squadre è certamente più divertente di un monologo o magari di un duello. Vi dicevo prima delle sanzioni, sono andato a ripescare quello che ha deciso ieri il giudice sportivo. Allora, per le intemperanze di Bergamo di domenica c'è stata una munizione con diffida e un'ammenda di 5.000 euro, di 3.000 euro per Del Neri, l'allenatore, e per il direttore sportivo dell'Atalanta Osti. Questo vuol dire che di allenatore e accompagnatore si sono accorti in quattro, no? I quattro della cosiddetta terna più uno. Mentre invece non hanno evidentemente inteso nient'altro di regolare, perché nemmeno Doni non è né tra i diffidati, né tra gli ammoniti, né quelli che hanno ricevuto ammende per proteste, nulla di nulla. L'arbitro Beghi non si è accorto che Doni in campo si era comportato in un certo modo, e nemmeno si è accorto evidentemente il giudice sportivo, al punto da chiedere un eventuale supplemento di indagine. Ci sono stati la bellezza di 1.000 euro di ammenda ai tifosi dell'Atalanta, che mi era stato segnalato qualche trattamento razzista o comunque di discriminazione, se non razziale, territoriale, l'avevano fatta nel corso della partita. E questo mi sembra particolarmente singolare, perché a fronte di questi 1.000 euro, che credo siano andati in circolo anche televisivo, e quindi creando un simpatico esempio, ci sono in Lega Professionisti 5.000 euro di multa a causa di coli razzisti ai tifosi dell'Olbia nella partita Olbia-Carpenedolo. C'è qualcosa che comincia a non tornare di serio, secondo me, ma di serio, di nuovo, nella giustizia, nella cosiddetta giustizia sportiva. Simone da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno. Devo ringraziarla pubblicamente per aver invitato Dino Zoff. Per me che sono cresciuto con la Juventus, quella del 76-77, dei 51 punti, sentire Dino Zoff è sempre un'emozione particolare. Poi una piccola considerazione. Sì. Vorrei capire una società come la Juventus, che comunque si doveva rifare un po' il trucco dopo le vicissitudini di Calciopoli, non abbia pensato a un personaggio del genere da inserire, io direi anche come presidente, guardi, ma da cosa arriva a dirla? Solo questo volevo dire. Effettivamente, Simone, detto tra noi, era una riflessione che si poteva anche fare. Daniele da Verona, buongiorno. Buongiorno, io chiedo scusa se la mia domanda è molto ingenua, ma mi ricollego a quello che ha appena detto per esempio l'ascoltatore di prima e anche quello precedente su Zoff allenatore. Chiedo a lei un parere: perché ci sono certi personaggi come Dino Zoff che per esempio non allenano più? Perché ci sono allenatori che, lo dico, vorrei sapere appunto la sua opinione, bravi come per esempio Gustinetti, che mi sembra dove va fa sempre delle cose buone con materiali magari non di prima fama, perlomeno, o penso anche a un Nevio Scala che è uscito praticamente dalla scena, cioè cosa sono delle cordate che praticamente alle quali bisogna essere collegati per rimanere o entrare nel cosiddetto calcio che conta, ammesso che poi sia il calcio migliore. Ecco, volevo la sua opinione. Ma in qualche caso sì, in qualche caso no. Certamente di una lei l'ha chiamata cordata, chiamiamola pure associazione a delinquere, che era la GEA, qualche notizia l'abbiamo avuta, no? Credo negli ultimi anni, e qualche sviluppo giudiziario lo abbiamo seguito anche recentemente. Questo però non significa che tutto fosse dovuto a questo. Ci sono poi altre valutazioni, altri parametri, giusti o sbagliati che siano, che riguardano l'allenatore allenatori come possono riguardare chiunque. Io sinceramente è su un altro versante che mi sono sempre stupito, o meglio che per un po' mi sono stupito, cioè il versante dirigenziale, cioè con della gente come Mataresa e Carraro che ci hanno rappresentati e in un caso continuano a rappresentare il calcio italiano. Per tutto questo tempo mi sono sempre domandato perché gente del calcio invece, ma del calcio vero, come Zoff, come Rivera e come altri ancora, non avessero mai avuto diritto di cittadinanza. Ma la risposta migliore gli era data prima il vecchio Dino. No, non sono compatibili con questo tipo di sistema, non sono compatibili con un paese di furbi. È gente che la schiena non la piega, evidentemente non può... evidentemente le nostre richieste, le nostre aspettative, quelle di chi ancora oggi scrive, ne ho davanti tanti che hanno scritto queste cose, sono persino ingenue, no? in un ambiente fatto in un'altra maniera, in cui ripeto, gli ombre vertical non sono esattamente, il fatto di essere vertical non è esattamente tra i requisiti richiesti per quel tipo di collocazione. Giorgio ha chiamato da Trieste, buongiorno. Buongiorno signor Berazzini. Dica. Sì, io chiamo da Trieste e sono ligure, per cui sono tifoso del Genoa da sempre, diciamo, da tre generazioni, quindi mi sento forse un po' di parte, no? Però volevo sentire il suo parere riguardo al fatto che il Genoa, malgrado l'ottimo campionato che sta facendo e oltre ai punti che ha e il gioco che sta sviluppando, i mass media, cioè i giornali, le TV, e se devo essere sincero anche lei, io non l'ho mai sentito parlare del Genoa, cioè se ne parla molto poco e non riesco a capire come mai. Un'altra cosa le chiedo ancora e poi la lascio: non è che forse la presenza di Preziosi dà ancora fastidio a qualcuno? A me personalmente no, certamente non è una presenza ideale, se vogliamo metterla in termini etici, no? E se, visto che stavamo per l'appunto parlando di etica e calcio e di personaggi presentabili o meno, detto questo, adesso mi pare che il Genoa, quando si può, perché sa, tenga conto che non è che stiamo qua a fare, ogni tanto arrivano queste cose, ma anche del Cosenza, dice, non parlate mai di questa grande impennata del Cosenza, e messaggi ne riceviamo ogni giorno, poi si cerca di trovare gli argomenti. Lei deve avere anche qualche piccolo problema di sordità, perché di Milito ho parlato a lungo in più di una circostanza, del fatto che Genoa sapesse sfruttare così bene il fattore campo, del fatto che prima della trasferta di Torino il Genoa sembrasse addirittura in grado di fare un salto ulteriore di qualità. Poi monografiche sul Genoa per il momento non mi sono ancora venute in mente, un giorno o l'altro magari succederà. Da Genova stavolta, non da Trieste un genovano, ma da Genova a Genova, Massimo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io ho una domanda. Come l'ascoltatore precedente parlava della Juve di Zoffi, in effetti quella Juve, se lei ricorda, fece soprattutto il secondo anno, Zoff mise una bella squadra in campo, no? Però giocava in contropiede. La domanda è: perché oggi, secondo lei, quando si parla di una squadra che mette 7-8 giocatori dietro la linea della palla, si parla di ripartenze, di attaccare gli spazi, è sinonimo di squadra ben organizzata e quindi di allenatore molto bravo, mentre Zoff era un difensivista? perché le etichette, insomma, hanno sempre un pochino, pensi che è addirittura morto come difensivista Nereo Rocco, che nel suo miglior Milan giocava con Amrin, Sormani, Rivera e Prati, no? E oggi vorrei vedere in quale squadra oggi in Italia si gioca con quattro attaccanti delle caratteristiche di Amrin, Sormani, Rivera e Prati contemporaneamente, ma all'inizio della partita, non nell'ultimo quarto d'ora, quando oggi i fenomeni ne buttano dentro magari quattro insieme, no? Oppure tre, perché i cambi sono tre e dentro ne lasciano un altro paio. Il ripasso di storia, anche se oggi ce ne eravamo già levati la voglia con Dino Zoffi, il ripasso di storia è legato invece all'attualità, cioè alla data odierna. Che cosa è successo il 19 novembre, ce lo ricorda Nicola Filippone. Sembra ieri. 19 novembre 1995, Nello scontro al vertice con il Milan, la porta del Parma viene difesa a sorpresa da un ragazzo nemmeno diciottenne. Un infortunio improvviso al titolare Bucci costringe infatti il tecnico Nevio Scala a schierare Gigi Buffon, 17 anni e 9 mesi. Il giovane debuttante non si lascia intimorire dal fatto di avere di fronte Baggio e Weah e difende la porta in maniera impeccabile. Nel finale compie anche una prodezza su una conclusione di Simone. La gara termina sullo 0-0 e il Parma guadagna un punto, ma soprattutto la consapevolezza che Buffon è più di una giovane promessa. Beh, questa è una combinazione non da poco, perché sinceramente ignoravo il contenuto dell'appuntamento, della rubrica di Filippone. C'è l'esordio di Buffon proprio nel giorno, in un giorno dedicato a Dino Zoff. Torniamo ad ascoltare qualche voce, per esempio un frammento di Collina sul tema della sudditanza. Se bisogna cercare per forza di dare a un errore che può essere commesso sul campo una chiave di interpretazione di questo genere, non posso dire altro che mi dispiace che questo avvenga. Sono certo che però la scelta, laddove sia sbagliata, non dipenda assolutamente dal colore di una maglia. Questa era Collina, che si è espresso anche sul caso Catania. Abbiamo già ascoltato una battuta ieri, sentirei anche quest'altra. Chi mette giù il testo delle regole o chi mette giù le previsioni regolamentari magari non può pensare a tutto quello che può succedere in campo, sicuramente non ha pensato al fatto che dei giocatori possano utilizzare l'abbassamento dei pantaloncini per ostruire la visuale agli avversari. D'altronde le regole vengono poi anche modificate in funzione degli episodi. Immagino che se qualcuno dell'IFAB avrà visto questo tipo di atteggiamento, codificherà e stabilirà che non si possa abbassarsi i pantaloncini, anche perché quel gesto non era un gesto irriverente nei confronti del pubblico, provocatorio nei confronti di un avversario, era veramente finalizzato ad altro. Se non conosci i fatti, scrive Giorgio da Bergamo, non parli per sentito dire, visto che io c'ero e non ho sentito cori più razzisti di quelli che si sentono in ogni stadio. Fantastico, fantastico. Evidentemente la pensa così anche il giudice sportivo, che ha applicato questa sanzione di 1.000 euro e che non ha, e che ha ignorato, o meglio, ha accolto con grande severità le proteste di Del Neri e di Osti, ma ha bellamente ignorato quello che era accaduto. Che era caduto in campo. Il messaggio successivo è divertente. Camillo da Pescara dice: per piacere faccia in modo che la sua trasmissione duri più di mezz'ora, perché ho sempre l'ansia che sta finendo e non me la godo. Camillo, mezz'ora è già una discreta performance, come dire. Fabio da Milano, buongiorno. Buongiorno dottor Granzini. Dica. Una considerazione e una sua opinione rapidissima, poi l'ascolto sì. Per radio. Sono due giorni che i media discutono dell'intervento del Mourinho a Coverciano, parlando appunto del prodotto calcio italiano all'estero. Faccio una considerazione: è possibile che solo Galliani abbia capito il senso dell'intervento di Mourinho, che non parlava sicuramente di difficoltà dal punto di vista tecnico, visto che ne sta incontrando molte, se ne sarà reso conto, ma proprio della valorizzazione del prodotto meramente commerciale italiano all'estero. La considerazione di Zenga sul fatto che si vedano le partite del campionato italiano su Al Jazeera mi fa cadere anche a me. Saluto, la ringrazio, l'ascolto per grazie a lei. Ho pensato anch'io che Zenga è più per dibattiti di quel livello è più da Variale che non da Mourinho, ma al di là di questo sì, Mourinho ha fatto un discorso assai più serio, ma non era neanche così commerciale il suo, poi l'ha tradotto in termini commerciali in particolare Galliani per un'ovvia deformazione professionale. Mourinho gli ha dato in minima parte quella connotazione. Ho già detto ieri che Mourinho in realtà ha fatto un discorso molto serio e anche molto motivato quando ha tessuto l'elogio del Genoa, per esempio, e l'ho già detto ieri, è strano che l'ascoltatore triestino di prima, tifoso del Genoa, non l'avesse beccato. Sfiga, vanno sempre riescono sempre a non sentire quello che... quando Mourinho ha fatto grandi complimenti al Genoa di Gasperini, perché ha raccontato che il Genoa ha cambiato 3 o 4 volte atteggiamento tattico in campo a San Siro, o meglio, al contrario, Mourinho dice di aver cambiato 3 o 4 volte l'Inter in corsa, di averla corretta nel corso della partita con Genoa, e 3 o 4 volte Gasperini e il Genoa hanno risposto tempestivamente. Quindi non era affatto un discorso negativo sul calcio italiano quello di Mourinho, era un discorso di di divertimento e di appeal che attualmente all'estero, anziché quello italiano, riguarda di più il calcio spagnolo e il calcio inglese. Io lo capisco benissimo, perché personalmente assisto più volentieri a partite spagnole o partite inglesi attualmente che non a partite italiane, a parità più o meno di categoria e di posizione di classifica. Poi i gusti sono gusti e non credo che si debba entrare, cioè che sia poi lecito discuterli più di tanto. Da Lucca ha chiamato Fabio, buongiorno. Tre considerazioni velocissime, sì. E poi l'ascolto in radio. Si sente in questi giorni che anche Camoranelli avrebbe detto che l'Inter è libera dipendente, sì. Io vorrei chiedere, se fosse possibile, a Camoranelli dove sarebbe la Juventus o il Milan adesso senza le punizioni di Del Piero, che mi sembra che abbiano portato molti punti alla Juventus, o senza i rigori di Kakà. Vorrei tanto chiedere questo, che sarebbe. Seconda cosa velocissima, si è sentito anche che Mourinho, il confronto fra Mancini e Mourinho, che Mourinho sarebbe tornato indietro al 4-4-2. Mi chiedo se è reato giocare con il 4-4-2, voglio dire, non è possibile cambiare allenatore e continuare con un modulo che aveva lo stesso, quello di prima. Mi sembra un grande reato. Chiedo anche la sua opinione. L'Inter ha cambiato allenatore, può darsi che possa giocare anche come giocava l'allenatore di prima, con lo stesso modulo. Non vedo un grande reato, non lo vedo neanche uno sminuire in Mourinho. No, io stavo aspettando la terza, ma non... La terza è Wenger variale, per venire anche un attimo su questo. Abbiamo il calcio più tecnico del mondo, si dice, no? Quindi con allenatori bravissimi che cambiano in corsa. E stranamente invece i giornalisti che se ne fregano altamente di questa tecnica e vanno continuamente a fare domande che esulano completamente dalla tecnica ogni domenica. Si va a cercare polemiche, certo. senza pensare. Questo è un dato tristemente oggettivo, purtroppo. Grazie Fabio. Ascolterei l'ultimo amico già collegato oggi, che è della provincia di Cuneo, è Andrea. Buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, grazie. Dica. Per lo spazio. Volevo fare due considerazioni su quello che sono in trasmissione, che è sempre piacevolissima. Oggi Dino Zoff, grandissima persona. E a proposito di Obra Vertical, come dice lei, mi chiedo come mai, appunto, Zoff è fuori dal giro, come fa ancora a esserci lei, perché è un'ombra vertical, ma il problema appunto è Materrese, cioè il manico che del calcio che è sbagliato. Quindi... Ma io sto nel privato, Andrea, no sto nel pubblico. Mi stupisco come facciano ancora a fare la trasmissione, perché in giro c'è gente come Variale, c'è gente come... Complimenti. No, la ringrazio di questo, insomma, volevo anche difendere un pochino, sono 24 ore, i suoi rami d'azienda, perché mi sembra che... non soltanto nello sport, perché non sta a me dirlo, ma mi sembra che anche in altri settori leggermente più pesanti, mi sembra che le scelte le sappiano fare. Diverso è per il pubblico, per enti, come dire, che si sospetta essere lottizzati forse da qualche tempo. Grazie del suo intervento, grazie a tutti gli intervenuti di oggi, grazie ancora in particolare a Dino Zoff e poi a Fabio Cantadori in regia, a Flavio Soardi in redazione e il Giornale Radio.